Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City, il master internazionale a distanza, quindi per lo più erogato come corso online. Master in Business Administration del Politecnico di Milano è, secondo la classifica stilata dal Financial Times, tra i 10 migliori del mondo e quarto in Europa. Ebbene, in un momento in cui si scopre l'utilità della formazione a distanza, ne parliamo con Federico Frattini, che è Dean, così come si dice appunto dalle parti del Financial Times, direttore, diremmo probabilmente non in Italia, della scuola di Master in Business Administration del Politecnico di Milano. E allora buonasera Federico, bentornato a Smart City. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, intanto se per prima cosa ci descrivi un po' come funzionano questi corsi. I nostri master fruibili online, di cui un esempio è l'International Sex MBA di cui si parlava prima, sono dei percorsi formativi per manager per l'80% erogati in modalità puramente online. Il 20% rimangono erogati in presenza e queste giornate in presenza sono prevalentemente focalizzate sui temi della leadership e dello sviluppo personale e professionale. La parte più consistente invece erogata online copre tutti i temi di gestione aziendale e di management. Quindi la parte soprattutto, lasciami dire, nozionistica, comunque di trasmissione di conoscenze più formalizzate. Sì, quelle che potremmo chiamare le hard skill. Senti, qual è il segreto? Che cosa fa la differenza in un corso di questo genere? Ma credo che la cosa più importante sia riconoscere che fare didattica online non significhi semplicemente tenere una lezione face to face tradizionale attraverso una tecnologia che permetta di separare docente e studente dal punto di vista della distanza fisica, insomma, certo, sì. Ma significa riprogettarla profondamente, riconoscendo che in una lezione tradizionale in presenza ci sono tre componenti che vengono dal docente naturalmente mischiate tra di loro. La prima è il trasmettere delle conoscenze, delle nozioni, dei concetti, degli strumenti circa la materia oggetto della lezione. La seconda è provare a trasformare queste conoscenze in competenze facendo lavorare gli studenti e gli allievi nell'applicare queste conoscenze a casi, esercizi e applicazioni pratiche. E la terza è il favorire la discussione, la socializzazione degli apprendimenti che si stanno sviluppando tra i discenti stessi, ricollegando questi concetti a loro esperienze vissute, pratiche della loro vita quotidiana. Chiaramente queste tre componenti hanno una rilevanza diversa in funzione del livello di formazione di cui stiamo parlando. Probabilmente la parte di trasmissione di conoscenze è più rilevante per i livelli di formazione inferiore, ma una mano si passa alla formazione universitaria, alla formazione post-universitaria, la parte applicativa e di discussione, socializzazione degli apprendimenti assumono una rilevanza superiore. Dunque Federico, non ti sarà sfuggito che c'è un'epidemia di coronavirus in corso, questo sta lasciando milioni e milioni di studenti a casa e ci sono anche tanti insegnanti che in qualche modo stanno provando, no, a inventarsi un modo per andare avanti un po' col programma, mettiamolo in questi termini, nonostante gli impedimenti. Ecco, qualche suggerimento, te la senti di darlo? Intanto se c'è un problema infrastrutturale di fondo per cui non è possibile e se invece non c'è, qualche suggerimento utile? Ma, sicuramente il problema infrastrutturale di fondo è legato alla connettività e al concetto di digital divide che comunque per tante scuole sta venendo, è stato superato sia per scuole e per studenti. Io credo che un primo elemento fondamentale sia riconoscere che la continuità didattica ha un grandissimo valore, quindi sono molto meritorie dal mio punto di vista queste iniziative. Intanto, cioè, fare qualcosa intanto va bene. È fondamentale, ecco. Non solo per non far perdere l'anno, ma per garantire la continuità di cui parlavamo prima. Il secondo messaggio mi porta a ricollegarmi a quanto dicevo prima. Per fare bene didattica online bisogna capire che non si tratta solo di collegarsi a una piattaforma digitale e rifare la stessa lezione che sarebbe fatta in presenza attraverso questa piattaforma. Significa utilizzare strumenti diversi per momenti e obiettivi formativi diversi. Ad esempio, per il trasferimento delle conoscenze e le nozioni di base, tipicamente si possono usare dei contenuti digitali asincroni, self-paced, che non necessariamente sono dei contenuti prodotti dal docente. Ecco, anzi, probabilmente oggi c'è ampia scelta, no, da questo punto di vista. Quindi l'insegnante potrebbe per intanto cercare i contenuti meglio realizzati più che inventarseli necessariamente. Io lo dico sempre, il compito del docente che vuole buttarsi nel mondo della formazione a distanza dovrebbe essere prima di tutto quello di diventare consapevole delle risorse online che ci sono. La parte di, diciamo, di applicazione di queste nozioni, conoscenze, diventa fondamentale farla attraverso degli strumenti molto interattivi e anche, diciamo così, molto one to one. Quindi io mi immagino il docente in un contesto ideale che propone alla sua classe questi contenuti che non sono necessariamente suoi, ma che sono ricercati, identificati dal web, e che poi organizzi nel tempo disponibile dei mini incontri di gruppo con un numero ristretto di studenti. Magari 4-5 alla volta, perché no, 25-30 è più difficile, certo. Però se noi pensiamo che la parte di didattica tradizionale viene spostata in modo asincrono attraverso l'uso di queste app e contenuti disponibili, le due ore di lezione, l'ora di lezione diventano sufficienti per interagire con 2, 3, 4 certo. gruppetti di studenti in cui li si aiuta a applicare quello che hanno appreso a dei casi, a delle situazioni, a dei contesti pratici. Probabilmente oggi abbiamo tutti sul cellulare, sul computer di casa, uno strumentario minimo che di fatto queste cose consente di farle. Possiamo dire, non servono chissà quali piattaforme. Stavo proprio dicendo quello all'inizio, il tema infrastrutturale oggi è largamente superato. È un po' una scusa. Dove non ci sono connessioni digitali a banda larga, c'è sicuramente una rete mobile collegata a un telefonino o a un tablet che permette di accedere a queste risorse e a costi estremamente contenuti. Va bene, allora grazie Federico Frattini. Grazie a voi, buona serata. Cari ascoltatori, appuntamento a domani e buona serata anche da parte mia.